come biblioteca che ha questo scopo di voler mettere in condizioni le persone attraverso l'istruzione, la cultura e la lettura, che è quella che noi offriamo fondamentalmente, l'incontro, l'idea di potersi costruire, ognuno di noi di poter costruire un percorso autonomo, libero e poter anche riflettere sulle proprie scelte con degli strumenti adeguati, insomma, la riteniamo un atteggiamento ecologico di vita. E in particolare la scrittura è un aspetto che ci affascina, ma non più tardi di oggi è venuta a trovarci una signora che da tanti anni si è occupata di grafologia, la Margherita Zerbi, non so se la conoscete, ecco, che è ancora molto presente e vivace, sì, e parlavamo dell'importanza della scrittura, lei lo vede un po' dal punto di vista del tratto grafico, ma chiaramente riconosceva l'importanza di riuscire a trasmettere delle emozioni, delle riflessioni, di esternalizzarle e di avere il coraggio, la voglia, la volontà di poi raccontarsi di nuovo delle cose. E una biblioteca fa anche della memorialistica, ecco, questa è una biblioteca che conserva e custodisce molto gelosamente anche i diari di delle persone che ci raccontano la propria testimonianza, quindi insomma rientra anche nella nostra missione. Vi lascio in compagnia con questi nostri ospiti che ringrazio ancora, siamo molto orgogliosi di questa serata e vi ringrazio di essere presenti. Vi invito a tornare in questa biblioteca perché è un piccolo posto, molto vivace, ogni giorno organizziamo qualcosa e anche degli incontri di lettura dove le persone sono protagoniste e possono esprimere le proprie opinioni, suggerire degli atteggiamenti e dei comportamenti, insomma c'è un mutuo scambio di riuso, il riuso delle buone pratiche di vita. Grazie, grazie, grazie mille, grazie, grazie a voi. Allora, io devo presentare Andrea Bocconi e lo presento come campione del mondo a sciabola e terzo classificato, poi lo presento come psicoterapeuta, come scrittore di narrativa, ha scritto il libro Duelli, come scrittore di libri di viaggio. E questo diciamo solo come tra le tante personalità che tu hai dentro di te, no? E come dice Walt Whitman, contieni moltitudini. Quali moltitudini hai messo in questo libro Io altrove? Quale parte di te? Ma dunque, la passione per il viaggio mi fa venire in mente che tantissimi anni fa mia moglie mi regalò gli Ex Libris e io non sapevo bene come funzionavano gli Ex Libris, ma a Lucca c'era un tipografo che aveva clienti in tutto il mondo sugli Ex Libris. Andai a parlarci e mi fece un questionario di personalità in pratica. Mi tenne un paio d'ore e poi disse va bene, allora... Secondo me ci dovrebbe essere una rondine perché viaggia ma torna indietro, poi perché si vede bianco ma c'è il nero sopra. Insomma, fece tutta un'indagine di personalità. Alla fine ci accordammo su questi Ex-Libris e c'erano in qualche maniera i quattro elementi in una laguna dove avevo cominciato a viaggiare e non partire, il primo libro di viaggio che ho fatto. E poi c'erano una spada e una penna. Le passioni di sempre. E quindi in questo libro in qualche maniera c'è il viaggio, la scrittura di viaggio e il piacere di proporre la scrittura di viaggio. Io da 16 anni o qualcosa del genere faccio parte di un'associazione che si chiama Scuola del Viaggio, nata all'interno di un progetto prima con le università, con gli studenti dell'università di tre città che erano, in questo caso erano Pisa, Lugano e Pavia. E che cosa si faceva? Si proponevano a degli studenti delle destinazioni belle da raccontare col carnet di viaggio, raccontare con la scrittura, e quindi io tenevo il laboratorio di scrittura. È una cosa che mi piace molto, perché è artigianato, no? La scrittura è artigianato, c'è tutta una mitologia della scrittura esagerata. Allora, in questo libro qui avevo fatto dei laboratori di scrittura di viaggio per la scuola del viaggio, e però una mia passione è l'autobiografia, il tema dell'autobiografia. E Bisentin, che è il direttore della scuola del viaggio, disse: perché non fai dei laboratori in cui mescoli l'autobiografia con la scrittura di viaggio? Dice: facciamo un esperimento, vediamo se interessano a qualcuno. Erano pieni, abbiamo dovuto fermarli, perché c'era veramente, era come avere toccato un nervo vivo. E quindi sempre Bisentin dice: perché non scrivi di questo? Avevamo già scritto un libretto col Turing, raccontare il viaggio, in cui si vedeva un po' queste esperienze della scuola. E ho fatto questo esperimento di scrittura, mettendo insieme l'autobiografia e il viaggio, perché risulta da alcune ricerche che la maggior parte dei nostri ricordi sono legati ai viaggi. Se io vi chiedo, Mara, che hai mangiato l'altro ieri a cena, te lo ricordi? L'altro ieri no, ieri sì, perché mi è rimasto solo. Ma l'altro ieri no. L'altro ieri no. Se ti chiedo quando eri in vacanza quest'estate, ti ricordi un luogo e una situazione in cui sei stata a cena in un posto o a pranzo che ti ha colpito? Sì, certamente, a parte che andavamo fuori tutte le sere, però sì, insomma, però sai dove eri. Ricordo nitido, sì. Ecco, no, è così, funziona così. Perché? Perché il viaggio è una frattura nella continuità spazio-temporale, nell'abitudine, quindi è una diversità che si è. E allora l'idea di proporre esercizi che mettessero insieme, quindi è un libro che si scrive oltre che un libro che si legge, e mettere insieme degli esercizi. Poi nel momento in cui proponevo gli esercizi li sperimentavo e mi divertivo a scrivere la mia esperienza delle varie cose. Quindi in questo libro qui entrano queste due, la scherma non è mai riuscito a farcela entrare, ma tutto il resto sì. Allora, la domanda che mi viene spontanea, me ne vengono due subito, no? A una è più o meno già risposto, però mi piacerebbe che parlassi un po' più di questo libro, perché verrebbe da dire che è solo un manuale. In realtà io l'ho letto e per me è molto più che un manuale. E la seconda domanda è: ma nella scrittura autobiografica di viaggio entrano solo i grandi viaggi? Assolutamente no. Assolutamente no, è stato molto interessante sotto questo aspetto l'esperienza della pandemia, perché le persone si muovevano clandestinamente a 300 metri di distanza da casa con un gusto della trasgressione e scoprivano cose, scoprivano luoghi, scoprivano possibili incontri, nonostante, non mi ricordo, questo senso di Carbonari quando vicino a casa nostra, che stiamo in campagna, incontravi qualcun altro lungo la strada che era in fuga anche lui oltre i 200 metri canonici. E io credo molto al viaggio a chilometri uno, credo molto che sia un viaggio interessantissimo. E uno dei viaggi più esotici che ho fatto l'ho fatto a piedi tutto intorno a casa, tutto intorno a casa nel senso a piedi, quindi 22 giorni di cammino, ma non ero mai più lontano di 30-40 chilometri da casa, ed è uno dei viaggi più esotici che ho fatto, più interessanti. Una cosa che mi è piaciuta molto di questo libro è che tu, come dicevi, riporti delle tue specifiche esperienze, ogni tanto sono le tue, ogni tanto sono di qualcun altro, no? E c'è qualche esperienza particolare che tu vorresti riportare di questo libro? Dunque, qua c'è un problema, che io dopo averli scritti me li dimentico. Ma davvero, me li dimentico fortemente, quindi ora dovrei inventare a botta calda. Mi riferisco invece a un altro libro, anche perché la persona si è rimanifestata giorni fa proprio. Sono in Indonesia, sono a Bali, sto cercando la casa di un famoso esploratore. Incontro una persona che mi dà l'indicazione, ci parliamo in inglese almeno tre quarti d'ora e poi scopro che è di Padova, ma che vive fuori dall'Italia da quando è scappato dai tetti per non fare il militare e da allora non è più rientrato, un pittore. E man mano che lo interrogo, man mano che lo interrogo sulla sua vita, scopro, è un pittore lui, scopro che è un uomo ricchissimo di esperienze, con un'ossessione per il sesso, un'ossessione profonda per il sesso, e che decido di intervistarlo sul sesso e il viaggio. Allora, è un'intervista che mi ha interessato tantissimo, è nel primo libro, In viaggiare e non partire, mi ha interessato tantissimo perché anche le mie amiche più fermamente femministe in qualche modo non si sono sentite offese dalla sua scrittura. E secondo me questo capita quando si incontra la sincerità profonda. E quindi si sospende anche l'attitudine giudicante. Poi potrei dire non ci vado a cena, ma riconosci quella qualità della scrittura. Dovrei guardare l'indice per ricordarmi, però lo piglio. Ma potresti anche raccontare il viaggio che non hai fatto. Quello è interessante, perché io c'avevo una fissa. Un giorno, sempre parlando con questo Claudio Visentin, che è un autore di libri di viaggio, è uscito da poco un libro sui fari costruiti dalla famiglia degli Stevenson. Robert Louis Stevenson si rifiutò di fare il mestiere del padre, degli zii, dei nonni. E allora, e questo, come ci sono arrivato a Visentin? Il libro, Il viaggio che non hai fatto. Ah sì, Il viaggio che non ho fatto. Lui un giorno mi disse, lo sai qual è il posto più lontano del mondo? Io dissi, le Figi rispetto a noi. No, dice, lontano in termini del tempo che ci vuole per raggiungerlo. E venne fuori che è Tristan da Cunha. Ora, Tristan da Cunha la conoscono in due posti. La conoscono quelli che si ricordano che ci fu una grande eruzione vulcanica negli anni 60. Gli abitanti furono portati, siccome era un protettorato britannico, furono portati in Inghilterra, l'isola fu evacuata, morivano ancora le mosche in Inghilterra, trovavano tutti i virus che non avevano a Tristan da Cunha. Gli altri che la conoscono sono quelli di Camogli, perché se voi andate a Tristan da Cunha trovate un sacco di Repetto e altri cognomi liguri, perché ci fu un naufragio di una nave mercantile della marineria di Camogli, che era fortissima la marineria di Camogli, e quando finalmente andarono a riprenderseli, due non vollero venire via. Quindi ci sono parecchi Repetto, eccetera. Allora, a me era venuta questa idea, dico, partire da Camogli... E poi si doveva andare a Cardiff. A Cardiff c'era una nave postale che partiva, faceva sosta a Sant'Elena, e più lontano di Sant'Elena, Tristan da Cunha. E poi ritornare dal Sudafrica, mi pareva un'idea bellissima. Andai dal mio editore e gli dissi: me la finanzi? Lui disse: no. Disse: scrivi il libro e poi vediamo. Però siccome era una cosa abbastanza impegnativa, ora ho saputo che si va in aereo, c'è un aereo per andare a Sant'Elena, ho perso il divertimento della cosa. Ci voleva un mese col postale, era un viaggio bellissimo. Allora, hai detto prima autobiografia come elemento di autenticità. Sì. E la biografia come la collochi? Dunque, la biografia, dunque, l'autobiografia è amore, è con tutte le sue contraddizioni, le sue falsità, le sue, i suoi autoinganni. La biografia è un po' pornografica, cioè c'ha un'ossessione per la completezza. Sono difficili trovare delle biografie, perché chi scrive la biografia di sente un enorme bisogno di non fare errori, quindi fa una super ricerca. Io per esempio ho amato moltissimo Herman Hesse, la sua biografia non sono riuscito ad andare più avanti di 100 pagine, quindi mi interessa meno, anche se naturalmente certe biografie sono straordinarie, per esempio le biografie romanzate, quelle dove si riempiono tutti i buchi con l'invenzione. La cosa interessante è che riempiendo i buchi con l'invenzione tante volte si chiappa di più la storia della persona che stando sui dati. Le peggiori biografie che si possono leggere sono quelle degli uomini politici, ma anche le autobiografie sono terribili perché sono una messa in scena per la storia, per i libri di storia. Allora, io sto tornando un po' al libro. Tra gli episodi che mi sono più piaciuti è quello del motorino. Ecco, quello in cui sono cornuto piace a tutti. No, non si capisce questo. No, si capisce abbastanza bene. Mi piaceva molto invece la parte con la quale tu riesci a ottenere il motorino da tuo padre. Quello mi ha molto colpito, no? Vedi? Sì, avevo 15 anni, ero in quinta ginnasio. Galleggiavo, quindi avevo detto in casa preparatevi un paio di materie, però se fossi promosso vorrei il motorino. In realtà io sapevo che sarei stato promosso, mentivo. Mio padre si tranquillizzò, disse tanto una materia la becca, di due una gliela lascia. Quando invece fui promosso a giugno, cioè lui era un uomo di parola, quindi cercò di commutare con un viaggio a Londra per imparare l'inglese. No, grazie, voglio il motorino. E col motorino era come gli stivali delle sette leghe, cioè improvvisamente le distanze non esistevano più. Io mettevo 500 lire di benzina, di miscela, e facevo 40 km e andavo in giro per le campagne. Dopo una settimana avevo fatto 600 km. Mio padre disse: sei andato a Roma, bastardo. Disse: no, non ci sono andato, era solo girando. Quindi il motorino, naturalmente col motorino andai a trovare la mia ragazza di quel tempo, senza avvisare, questo è sempre un errore. Stendiamo un velo. E da quel momento avvisi prima di andare. Avviso sempre, avviso sempre, ma... Allora, il titolo, io altrove, se tu dovessi scegliere un altrove dove potresti stare? Io una volta, essendo un po' in crisi su tutti i fronti, lavoro, la psicosintesi, le relazioni, eccetera, mi presi un anno sabbatico, feci un debito, presi un'aspettativa senza, non pagata, dicendo che facevo un viaggio di studio, e feci un giro del mondo. E la idea che ci avevo era: se c'è un posto dove mi piacerebbe stare, lo piglio in considerazione e magari mi fermo, magari torno, liquido le mie cose e ci sto. Quindi me lo sono chiesto tante volte questa domanda. Alla fin fine sono sempre due i posti dove starei: o l'India, mi piacerebbe stare a Varanasi, proprio nel dove c'è più casino, dove sui gatti c'è di tutto, dove si vede la più bella rete di fili elettrici che pendono da tutte le parti. Cioè, una città assolutamente inguaribile, non c'è, anzi peggiora di volta in volta che ci torna. Però io mi sono sempre sentito come appello, se no l'Indonesia, che è molto facile invece, è comoda, è facile, mangi bene, però il posto dove potrei veramente stare un po' romanticamente sarebbe l'India. E volevo spendere ancora due parole su come è strutturato il libro, però prima ti faccio un'altra domanda. No, ora lo so, c'ho tutto qua sotto. Autobiografia come mappa della vita. Sì. Milan Kundera ha detto: alla fine della vita sono 5 o 6 le giornate importanti. No? Può essere un po' crudele come osservazione, però che ci sono dei punti nella mappa che contano e intorno ai quali poi si potrebbe anche dire che sono come degli asteroidi che cascano sulla Terra, fanno un grande buco, fanno delle onde d'intorno, lasciano tracce. Ecco, questo sì, può essere una malattia, può essere vincere i mondiali a 72 anni, ma dei settantenni, chiariamo. Devo dire una cosa, io sono sportivo come Andrea, e comunque chi diventa campione mondiale master, anche se è master, significa che ha delle qualità non da poco. Sono perfettamente d'accordo. Nel senso, anche io ho partecipato a campionati europei, non ho mai raggiunto il titolo, e quando vedi chi li raggiunge è chi aveva carte da giocare anche prima. E lì c'è anche una soddisfazione, perché ogni tanto torna, per esempio, c'è un russo, Kropuskov, che ha vinto 2 Olimpiadi di seguito di sciabola. Quando si è ripresentato nel Master era 40 kg di più di Kropuskov, non entrava nella divisa e beveva vodka durante la gara, letteralmente, e se gli arrivavi vicino eri morto, perché la mano era quella. Però puoi battere il campione olimpionico, perché oramai è a 40 kg di più da portarsi in giro. Allora, sì, volevo tornare ancora un attimo all'autobiografia come mappa della vita. E penso che questo libro sia, e dei tanti libri che io ho letto sull'autobiografia, l'unico che veramente ti consente di scriverla un'autobiografia. E mi sembra siano 15 o 16 capitoli, questo faccio un po' di spoiler, ma divisi in possibili ipotesi di viaggio. Si parte dal primo viaggio che ho fatto, la prima volta che qualcuno mi ha portato da qualche parte, la prima volta che io ho portato qualcuno da qualche parte, il turning point. E devo dire che è molto anche emozionante, perché si conosce un po' della vita di Andrea, dei suoi familiari, perché alle volte riporta passi di Francesca, passi dei vostri figli, anche non so se era in questo libro, no, non era in questo libro, era in India formato famiglia. Esatto, dove Andrea intervista suo figlio su un viaggio, no? E quindi i punti di vista diversi, e che tra il resto possono cambiare anche nel tempo. Quello dico, ero partito con la domanda: è solo un manuale? No, è anche grazioso da leggere, non è solo. Ma forse la fortuna di questo libro è che proprio nasce da laboratorio di scrittura, e quindi nasce con questo DNA, e infatti poi le persone, glielo diciamo? Voi non lo sapete, ma c'è compito in classe ora. Da poco parte il compito in classe, poi verranno interrogate 3 persone. È andata così. Allora, facciamo un'ultima domanda per il compito in classe, che è: libri di viaggio e l'autobiografia nei tempi dei social hanno ancora senso? Ma guarda, secondo me sì, e non perché li scrivo, perché ne leggo anche tanti. Dunque, per esempio, i nostri corsi di scrittura di viaggio spesso vengono dai blogger, con le loro specifiche esigenze, cioè la limitatezza dello spazio, no? Un blogger non può mettere 6 pagine di testo per raccontare una giornata a Bolzano, no? Quindi sono, come dire, campi diversi. però le regole del gioco sono le stesse, un dosaggio fra il luogo, gli incontri, il movimento nello spazio e quanto io ci vuoi mettere, perché evidentemente il libro di viaggio è autobiografico per definizione, no? Quindi è molto pericoloso, perché l'effetto del chi se ne frega è dietro l'angolo e certi libri molto ombelicali, dice, ma a me che me ne importa di quello che tu pensavi in quel momento. Ne cito uno per tutti, Emanuele Trevi. Un libro, Emanuele Trevi scrive molto bene, e il libro Due vite è un bel libro con cui ha vinto, mi pare, lo Strega. È un libro che raccomando. Scrive un libro di viaggio in cui continua a dire, certo, questa questione, io sono qui in questa cosa, non succede nulla. Invece il libro di viaggio sostanzialmente è gli incontri, no? Gli incontri. C'era un grande scrittore di viaggio che solo quelli della mia età si ricordano, Vittorio Girrossi, era uno giornalista, scriveva su Evo, aveva una collana di libri di viaggio nella Mondadori e c'era sempre la stessa... le stesse tre righe, mi ricordo qual è la parola che si usa per dire quelli che metti in cima al testo, ed era: non ho girato il mondo per contare scalini di campanile, ed era di un marinaio genovese del 500. Questa è l'essenza del racconto di viaggio, degli scalini di campanile. Poi oltretutto è un mestiere che è diventato difficile, perché se io dico, quando facevo le presentazioni di un libro di viaggio, Avventura nel mondo, era un disastro, perché le persone uno mi disse, lei quante volte è stato in India? E io disse, ma forse 15, 18, io 54. Sì. Ha vinto, devo dirle. Quindi c'è questo consumismo, questo piantare le bandierine, sì, no, sì, sull'Atlante. C'è questa cretinata del grande viaggiatore quando è superato 50 paesi nel mondo. Ma che vuol dire? Che vuol dire? Una persona può essersi mosso soltanto nel Trentino ed essere un grandissimo viaggiatore. Una persona può essere andato in 120 paesi sempre portandosi dietro quattro pregiudizi, sempre dicendo, insomma, sono quelli che chiamo il ragù della mia mamma, non lo fa nessuno. Sì, penso l'aspetto autobiografia e autenticità sia fondamentale, nel senso, come dicevi prima, anche i piccoli viaggi possono essere altamente significativi. C'è un esempio storico bellissimo, quello del viaggio in giro per la mia stanza, Voyage tout de ma chambre, di questo ufficiale, un ufficiale francese che viene messo agli arresti domiciliari per 42 giorni. E siccome si annoia, scrive del suo viaggio nel suo alloggio e scrive un libro delizioso. 42 giorni racconta. Allora, per esempio, io feci un esperimento su questo, dissi, siccome mi era molto piaciuta la cosa, mi misi a guardare lo studio dove lavoro come psicoterapeuta da 30 o 40 anni, che è uno studio un po' con tanti oggetti, tante cose, non è di quelli ambulatorio, medico, e mi misi a guardare tutti gli oggetti che c'erano, a ricostruire la storia, questo dove l'ho preso, come, questo non so più da dove viene, che cos'è, quanti metri è questa stanza, quanto avvicina a questa persona, che cosa vede questa persona dalla finestra, cioè, mi sono divertito da morire, ho viaggiato nel mio studio dove passo molte ore della settimana. Sì, sì, non siete... Vi dico subito, è un gioco, non siete obbligati a leggere ciò che avete scritto, ma siete obbligati a scrivere. È a tempo, cioè in 5 minuti scrivete il peggior viaggio della vostra vita. Quello che è stato una catastrofe. L'ultima volta, non mi ricordo Francesca se te c'eri, che una persona alzò, si alzò un piede e disse: dunque era il viaggio di Orsi, cominciò così. Quello in Africa. Sì, che era un inizio meraviglioso. Era un incipit formidabile. Quando via, faccio partire? 5 minuti, vai. Scrivete senza pensarci, senza correggere, senza voler essere interessanti. Scrivete per voi stessi il peggior viaggio della mia vita. Chi rompe il ghiaccio? Non ci sono voti. Ok? Si parte, che bello. Ah, Corsica 1989. 5 amici fa. Si parte, che bello. Siamo in treno, chi canta, merendine. Dopo un'ora circa il mio fidanzato si accorge che ha dimenticato i biglietti della nave a casa. Teniamo il suo zaino per renderlo più leggero, guardiamo la combinazione di treni con cui può tornare indietro, prendere i biglietti e raggiungerci alla Spezia 11 minuti prima della partenza della nave. Dormiamo per terra al porto di La Spezia, perché lui arriva 2 ore dopo la partenza della nave. In campeggio al nord, il vento è tale che non solo la tenda rischia di volare continuamente via, ma il sugo della pasta è sempre pieno di sabbia, di terra, e in spiaggia non si riesce ad andare per le tempeste di sabbia sahariane. Andiamo a sud. Arriviamo in nuovo campeggio e mentre piantiamo la tenda, come mai gli altri spicchettano e se ne vanno, stormi di zanzare ci assalgono. L'auto costa troppo, facciamo autostop. Giuro, nessuno mai ci caricò. Fino alle 5 del mattino tutte le sere, fino a che una sera implorai minacciandolo un signore che scappò letteralmente chiudendosi dentro l'auto. Io ripartii 4 giorni prima della fine della vacanza, da sola. Molto carino. Interroghiamo. Ha vinto l'Oscar però, è partita. È veramente brutto. Se qualcosa può andare male, andrà male. Primo caposaldo della legge di Murphy. Anghiari, Bolzano, gennaio, dopo il primo seminario di Graffin. Io distrutto da 3 notti in bianco e con addosso, lo scoprì a Casalana, la peggiore influenza della mia vita. Parto da Anghiari che non sto quasi in piedi. Porto da Arezzo un'amica che saggiamente era in treno. Mi infilo verso l'autostrada. Dai, per fortuna non c'è troppo traffico. Tra 4 ore sarò a casa. Passo Firenze e benedico il Signore. Per fortuna niente ingorghi. A Bologna mi devo fermare e mangiare un boccone e fare una sosta. Sono esausto. Mentre sto parcheggiando all'autogrill, la gomma anteriore destra tocca il cordolo del marciapiedi e si taglia la gomma. Mi trattengo dal chiamare in causa i santi. L'auto non ha ruota di scorta, ma solo il ruotino. E poi qua sono proseguito. Da Bologna a Lana con ruotino di scorta e allora fermandovi ogni circa 100 km. Una agonia. Sì. Allora, lei dietro a me. Lei dietro a me. Io? Sì. Devo alzare il piede. Sì, che. Lanzarote col mal di pancia. Già partendo da casa i primi sintomi si erano fatti sentire, ma si pensa sempre, passerà. Poi finalmente arrivati ci accoglie la casa che già conosciamo, bella, ma con il tempo cupo la rende malinconica. Il disagio aumenta con il freddo che ci accompagna giorno e notte, particolarmente di notte, quando mi alzavo per i dolori che ancora non mi abbandonavano. Abbiamo cercato di porre fine al freddo comprando una stufetta elettrica, ma in tutta l'isola non se ne trovavano più. Erano andate a ruba con il clima rigido. L'isola vulcanica sembrava la Verde Irlanda. È vero che sono molto interessanti i viaggi andati male. Perché drammaturgicamente c'è l'obiettivo, c'è l'ostacolo, no? E tutto quello che ne nasce, perché come dico sempre, Giulietta ama Romeo e i genitori gli comprano un appartamento a Verona, non interessa a nessuno. Bene. Sì. Allora, Andrea, 4 anni fa, è tornato a Bolzano dopo molti anni che non veniva, a tenere un seminario di autobiografia. E da questo seminario poi è nato un laboratorio che è continuato in questi 4 anni. E insomma, prima ti faccio una domanda e poi... c'è bisogno di essere scrittori per partecipare o per scrivere di sé? Ma che vuol dire essere scrittori? Essere scrittori, noi siamo alfabetizzati. Io devo dire che ho fatto un corso di scrittura in carcere in cui c'avevo anche un analfabeta che dettava, no? Quindi c'è tutta quest'aura, no? E no, io non sono scrittore. Ma come non siamo scrittori? Che è l'unica capacità espressiva che abbiamo da quando alle elementari facciamo le prime lettere. Quindi il vero problema è quel giudice interno che si confronta. Un mio amico lo sciabolatore ha scritto un manuale di scrittura di viaggio dal titolo un po' inquietante: come scrivere come Tolstoi. No. Un po' ironico come how to write like Tolstoy, però in realtà guardate questo, abbiamo sentito 3 storie scritte in 4 minuti ed erano tutte e 3 interessanti e si poteva andare avanti. Questa è, io quando ho cominciato a presentare questo libro mi è venuta voglia di fare questo esperimento qui. Le prime volte erano terrorizzati gli organizzatori perché dicevano nessuno, mettere le persone in difficoltà, le persone non vorranno... Il difficile era mettere un limite dopo, perché tutti avevano piacere di leggere quello che avevano scritto. Se lo si fa in questa atmosfera qui, no? E la cosa interessante è che con una scrittura veloce e spontanea si raccontano delle storie interessanti, sono divertenti. Ora, io mi ricorderò per i prossimi 10 anni del fidanzato di Sandra che si dimentica, anche perché quando siamo andati a un gemellaggio da ragazzi in Francia, un nostro partecipante si è presentato col permesso di pesca che pensavo fosse valido per barcare il confine, e da allora a Lucca è conosciuto come il pescatore. Però meno generosi di Sandra e dei suoi amici, noi dicemmo ciao, trovati un torrente dove andare a cercare trote, no? Quindi queste sono cose, sono divertenti, andavamo a Zara per questo campionato, c'era in macchina il nostro commissario tecnico che tira un moccolo quando si arriva alla dogana slovena e dice: ho lasciato il passaporto a casa. E però era livornese, è livornese, quindi dice: De, me la sono dimenticato, gli dice al doganiere sloveno. Il doganiere sloveno gli dice: però c'ho la patente, e gli dà la patente. Questo era talmente stupefatto dalla reazione che ha solo chiesto: kosovari, albanesi, rumeni, tutti italiani, nazionale di scherma, gli dice questo brandendo una sciabola. Ci hanno fatto andare via per forza. quindi no, non occorre essere scrittori, però un laboratorio di scrittura aiuta a mettere a punto l'artigianato della situazione, come una persona, tutti noi più o meno cuciniamo, ora te stai zitto di noi, tutti noi cuciniamo, una persona ti dice: guarda, puoi fare questa cosa qui, ti miglioro quel tanto, no? L'artigianato della scrittura, per questo servono, poi servono perché si sentono gli altri. E tutto quello che viene detto, io ho visto che veramente, in una parola di scrittura, le persone crescono e raccontano storie interessanti e ci stanno bene, perché è una bellissima esperienza di condivisione. Vogliamo sentire qualcosa? Sentiamo che ne è venuto fuori dal vostro laboratorio. Così anche tu hai un feedback. Dell'eredità. Sì. Allora, raccontate che... Sì, allora noi appunto, dopo aver frequentato il laboratorio di scrittura di Andrea, abbiamo deciso di andare avanti, proseguire, fare questo esperimento. E quello che diceva Andrea effettivamente, è proprio vero, non è solo per scrivere noi qualche cosa, imparare, diciamo così, a raccontarci, ma è ascoltare le cose degli altri, che spesso sono di una ricchezza straordinaria. Devo dire che forse la cosa che più ci ha dato in questo laboratorio è stato ascoltare le scritture degli altri, le esperienze. Ne abbiamo raccolte alcune che abbiamo così pensato di condividere in questa occasione. Adesso magari non le leggiamo tutte quelle che... anche perché doveva esserci un'altra persona che purtroppo ha avuto una riunione imprevista e politica e ci ha detto non so se arriverò in tempo, infatti. E allora magari le letture sue le tagliamo. Allora, inizio con una cosa un po', diciamo, questo laboratori di scrittura, perché alla fine questo è il quarto anno, perché noi abbiamo pensato di farne uno e in realtà è stato talmente tanto vitale che siamo arrivati al quarto anno, quindi così ho un po' selezionato alcuni dei testi che le persone mi hanno dato. E questi laboratori si sono articolati in maniere così molto diverse, esperimenti che abbiamo proprio fatto con Giulio, poi Giulio ha letto di tutto sull'autobiografia per stimolarci il più possibile. Alcune cose, inizierò con una cosa tratta da un laboratorio intitolato C'ero una volta, e dove avevamo fatto La mia vita passata e La mia vita presente, scrittura sempre appunto libera, a tempo, 5 minuti. La mia vita passata. Sono stata tante cose o solo una? Ed è mutata, risurgo, non riguarda solo l'ora, riguarda il tutto. Sono stata figlia, sorella, moglie, madre, vedova. Sono stata donna e uomo. Ho osservato tramonti dal cielo e dal mare. A volte non ho visto, altre ho visto troppo. Sono stata un gatto, un cane, un puma, un filo d'erba. Sono stata albero e ho percepito vita intorno a me nutrirsi e spegnersi e ricominciare mentre io lenta crescevo e cambiavo. Mi sono espansa attraverso la terra e ho tirato su le braccia e mi sono allungata per cogliere sempre un po' di aria in più. Ho nuotato chilometri di mari e risalito fiumi. Ho lottato per la vita e mi sono lasciata morire. Sono stata così tante cose che non mi ricordo, ma mi basta guardarle per ricordarle, immaginandole di nuovo per la prima volta. La mia vita presente. Sono pronta, spugna, in ascolto, percezione, vigile. Sono a caccia, in agguato, come un felino, sculetto, tastando il terreno, pronto al salto. Come un camaleonte osservo, lancio la lingua a molla per afferrare la cavalletta. Come una pianta carnivora aspetto la formica nel mio dolce tranello. Mi nutro di ciò che mi arriva, prendo appunti, mi soffermo pacifica, sanguino un grumo per volta, mi abito per sempre. Il presente è assoluto, è il punto sulla I. Per rispetto delle scritture non dico il nome di chi ha scritto, perché andiamo con le lettere a me stessa. Molto spesso all'interno del laboratorio abbiamo così stimolato la scrittura o scrivendo a noi stessi, parlando a noi stessi o guardando per esempio una foto di noi stessi. o addirittura facendo dei dialoghi con parti del nostro corpo, evocandole e magari durante una meditazione e cercando di capire che cosa ci dicevano. E qui abbiamo una serie di scritti a questo proposito. Vai prima tu guardando una mia vecchia foto. Sì. Guardando una mia vecchia foto. Che struggimento che mi prende quando guardo questa piccola fotografia. Eccoti qui, ragazzo fiducioso nella vita e ardente nel tuo slancio verso la giustizia. La giustizia che ti stava tanto a cuore. Sì, certo, anche la tua, la mia solita fragilità che si percepisce dal tuo sguardo sognante e languido. Uno sguardo di meraviglia. Quell'incanto in cui vivevi era il modo giusto di vivere, di amare e lottare senza compromessi. Con la tua aria spavalda da aspirante eroe che sa sfidare i privilegi, le ottusità, il torbido della società degli uomini, che sta in una trama di relazioni sincere e sogna un mondo migliore. Vorrei dirti che se forse ti ho tradito e dimenticato, ora che torno a guardarti con attenzione, potresti essere tu il mio maestro. Sempre sulla scia del dialogo con se stessi, c'è una lettera a me stessa. Carissima, lo ricordo ancora, quel maglione da uomo, dritto sui fianchi, lungo, con il collo a lupetto. Era fatto di lana grossa, leggermente infittita, con una sobria lavorazione, forse a coste o con qualche treccia. Sul maglione da uomo niente da dire, andava abbastanza di moda quando tu facevi la seconda o la terza superiore verso la fine degli anni Ottanta. L'avevi ricevuto dallo zio Aldo, lo zio fantastico, allegro, sincero, affettuoso, che purtroppo sarebbe morto di cancro qualche anno dopo, tenendoti a chiacchierare con lui sul letto d'ospedale fino a poche ore prima della sua scomparsa all'età di soli 39 anni. Ma fin qui, come dicevo, nulla di rilevante. Il punto era il colore. Un giallo limone fosforescente, mai più visto da allora fino a questi ultimi anni, nei quali lo si può notare nell'abbigliamento sportivo dei ciclisti o dei montanari modaglioli. Era un giallo limone accecante, stridente, che mai ti era piaciuto prima e mai più ti sarebbe piaciuto poi. In realtà probabilmente nemmeno allora ti piaceva, ma era un colore che ti provocava. Avere il coraggio di indossarlo, quel maglione, quel pensiero aveva messo in ombra qualsiasi altra considerazione. Avresti saputo indossarlo per andare a scuola al mattino? Le compagne regolari, chiamiamole così, l'avrebbero trovato di cattivissimo gusto e anche le compagne alternative, quelle con cui più facilmente ti schieravi, fra l'altro le più intransigenti in fatto di abbigliamento, l'avrebbero trovato assolutamente sbagliato. E come resistere a quella sfida allora? Chissà cosa ti muoveva, il bisogno di sentirti esistere nonostante la disapprovazione, il bisogno di andare fino in fondo in un tuo pensiero slancio, per quanto bizzarro fosse, il volerti dimostrare che le tue scelte erano davvero tue. È solo un maglione, ti eri detta, e l'avevi infilato, ed eri andata a scuola quasi in uno stato di ebbrezza. Ma alla fierezza dei primi 10 minuti, seduta al tuo banco, era subentrata una gemma di emozioni sempre più faticose da sostenere. La sudorazione era arrivata al massimo, sia per l'imbarazzo che per la lana effettivamente calda e di ottima qualità. Lo zio era un intenditore. Nessuna compagna aveva commentato, forse solo qualche sguardo. Ti eri data da sola la tua punizione. Una punizione fatta di grande disagio. Il giudizio aleggiava comunque attorno a te, che volevi ostentare la tua indifferenza. Avevi manifestato un'eccentricità che era forse spiazzante per gli altri, ma che lo era tanto, tanto anche per te. Ora, credo, non ne avresti più bisogno. Forse quel sentiero l'hai davvero percorso fino in fondo. Forse l'eccentricità ha ancora spazio in te, ma puoi lasciarla sussurrare nella tua intimità ora. Puoi esternarla nella gradazione che ti fa sentire più libera. Gli altri possono anche non accorgersene. E va bene lo stesso, anzi, sai, è senz'altro meglio. Vuoi leggere quella dell'oggetto? Come? Quella che leggevo. Ah. 26. No. Ok. Che cosa avevamo? Il professore Non so, adesso non vogliamo tenervi qui troppo, era giusto per darvi un esempio. Era un dialogo immaginario. Ecco, un dialogo immaginario fatto con... perché spesso nel laboratorio abbiamo anche evocato persone a cui dire delle cose che non abbiamo detto, o addirittura persone che non ci sono più, con cui abbiamo immaginato di poter ancora parlare. E questo è un dialogo che è stato scritto durante il laboratorio e che abbiamo estratto. Ben trovato, professore. Le chiedo scusa di averla convocata alla porta della mia immaginazione, ma fra i cattivi maestri c'era lei. Non è stato il solo, ma diciamo che la chiamo a simbolo dei professori insufficienti che ho avuto al liceo. D'altra parte lei è stato il nostro commissario interno alla maturità e perciò presente fino alla fine. Buonasera a lei, non ricordo il suo nome. Caramaschi, professore, non mi aspetto certo che possa ricordare il mio nome dopo tanti anni con tutti gli allievi che ha avuto. Infatti mi sono passate davanti tante facce e ho scorso tanti nomi sui registri. Ma di qualcuno, professore, si ricorda? Qualcuno l'avrà colpita per un qualche motivo? Boh, sì e no. Non mi ricordo nessuno di particolarmente significativo. Forse come si chiamava? Quello ripetente che raccontava le sue scorribande nei campi con le morose e aveva la passione per le auto. Ravelli. Sì, Ravelli. Professore, proprio lui. È morto di leucemia l'estate scorsa. Siamo stati compagni di università e siamo rimasti amici. Si era laureato in filosofia e teologia. Lei l'avrebbe mai detto? Devo dire che l'avrei piuttosto immaginato come rappresentante di auto. Già, professore, questo è il punto. Lei era in classe, ma la sua attenzione era altrove. Si dice degli studenti intelligente ma non si applica. Perché non girarlo agli insegnanti? Lei non si applicava. Solo che lo studente butta via la propria intelligenza. Lei è la nostra di intelligenza che buttava. Ma di cosa parla? Parlo di lei. La sto giudicando e con severità. Lei entrava in aula, si sedeva in cattedra, apriva il giornale, lo scorreva mentre lui si faceva altro, ripassi, chiacchiere, disegni, contenti forse di non essere interpellati in storia e filosofia. Poi finalmente prendeva il libro, ripassava l'argomento, lo introduceva e se restava tempo interrogava. Senta, Caramaschi, professore. Non capisco questo malanimo nei miei confronti. Disistima, professore. Quella per chi non sente la responsabilità verso le persone e non mette entusiasmo nel proprio lavoro. Calma, io un lavoro ce l'avevo, consulenze, e mi piaceva. E poi ho avuto l'opportunità anche di insegnare. Appunto, lei un lavoro ce l'aveva e poi le si è presentata la prospettiva di uno stipendio garantito. Per lei solo un arrotondamento delle sue entrate e la garanzia di un piccolo reddito fisso. Lei va giù molto dura. Sì. Insegnando filosofia, lei avrebbe avuto la possibilità di appassionarci al cammino dell'evoluzione del pensiero, di problematizzare i temi che la storia della filosofia incontra, di valorizzare le nostre domande di adolescenti, inserendole nel solco degli interrogativi dell'umanità. Beh, non eravate molto ricettivi. Infatti, se la scuola era tu studi la lezione, io ti interrogo e poi ti valuto, la nostra preoccupazione era di portarci a casa un risultato. Oltretutto, avevate la pretesa di cambiare il mondo. Cambiare il mondo, ma ci pensa, non eravate niente e volevate tutto. Ecco, vede, non eravamo niente, questa era la sua posizione. Sa, si dice che un bimbo cresce solo se sognato e io direi che il giovane matura autostima soprattutto se stimato. E allora? Lei non ci stimava, l'ha appena detto, non eravamo niente e l'ha detto anche in classe un giorno in cui si è permesso di fare pronostici su noi con quell'espressione di sufficienza con cui ci osservava. Nessuno splendeva nel futuro da lei prospettato, in particolare le ragazze appiattite nell'alternativa prosecuzione degli studi con uno sbocco lavorativo scontato, insegnanti o ruoli marginali, oppure mogli e madri di famiglia. Non mi ricordo nemmeno cosa riservasse per me la sua sfera magica, ricordo solo la povertà della sua immaginazione, la pigrizia di indagine sulle nostre propensioni e possibili competenze e la mancanza di rispetto verso vite ancora in formazione. Ebbene, con qualcuno di quegli studenti ho mantenuto i contatti, altri li ho rivisti lo scorso anno, nel pranzo del cinquantennio della maturità, persone che hanno interpretato la propria vita, gli studi, il lavoro con dignità, coraggio, impegno, a volte con fantasia, spesso con successo, e che hanno affrontato anche il dolore a testa alta. Bocciato su tutta la linea, dunque? No. Aver avuto fra gli insegnanti uno come lei e qualcun altro mi è stato altrettanto utile dei buoni insegnanti. I modelli negativi ci mettono in guardia dalla deriva che una professione può prendere. Addio, professore. Grazie. Grazie. Un esempio di quello che succede nei laboratori. E quindi, prima di lasciarci, due cose: domani ci sarà un seminario che terranno Andrea e Francesca, e una cosa che non ho detto, che Andrea tra le sue varie competenze è un esperto anche dei tarocchi, sul piano simbolico, non divinatori. Ha scritto anche un bellissimo libro che è Il matto e il mondo, che non è più pubblicato. Io ho portato qui la mia copia se qualcuno lo volesse consultare qua. E chi si volesse iscrivere al seminario, ci sono ancora posti. E poi chi fosse interessato ad acquistare il libro Io altrove, io ho acquistato 5 copie che ho portato qua, per cui chi fosse interessato e vuole acquistarle, il costo è quello di copertina, 14,5 euro. Io mi sento francamente di consigliarlo proprio per la leggerezza con la quale è scritto, e perché poi è veramente uno dei pochissimi libri dove si inizia e si finisce veramente un percorso autobiografico, con la metafora del viaggio, ma veramente sono tutta una serie di tappe dove uno alla fine arriva alla fine di un viaggio, come il viaggio della vita, no? Il primo e l'ultimo viaggio di solito sono quelli che non raccontiamo, sì, quelli che non sappiamo raccontare. Mi ha colpito questo testo, e mi ha fatto venire in mente, quest'anno il libro più bello che ho letto secondo me è Atlantide di Renzo Piano e Carlo Piano, l'architetto e suo figlio. E Renzo Piano, questo gigante, è stato bocciato 2 volte al liceo classico di Genova, nel senso ci ha messo 7 anni a farlo, ed è stato bocciato anche a storia dell'arte. Allora, c'era una grande mostra a Genova dei suoi lavori, che sono in tutto il mondo, no? Dal Buburg, il primo, insomma sappiamo chi è Renzo Piano, e entra la sua vecchia professoressa di storia dell'arte. Renzo Piano va a salutarla e le dice: lei mi ha rimandato a storia dell'arte. E questa gli dice: vede che avevo ragione. Quello ho trovato bellissimo. Bene. Grazie dell'attenzione. Grazie ancora. Grazie.